24 mattino. L'Italia si desta. Giovedì 3 gennaio, sono le 7:15 minuti 50 secondi in questo momento. Un buongiorno da Gigi Donelli, questa settimana al microfono qui a Radio 24 nello spazio di 24 mattino. Dunque il passaggio dal vecchio al nuovo anno, ma anche dal vecchio al nuovo Parlamento in vista delle elezioni di febbraio, tempo di cambiamenti, di novità. All'interno, e chissà, magari con la forte speranza che sia anche il tempo che potrà segnare l'inizio della fine di questa lunga crisi economica. Ecco, tra il vecchio e il nuovo è anche il tema che andremo ad affrontare più tardi a partire dalle 8 in due chiavi di lettura, vecchio e nuovo nel mondo della politica. Avremo con noi due ospiti che rappresentano davvero il passato presente della politica italiana, un ex ministro, una figura diciamo storica della Democrazia Cristiana, e poi avremo un giovane candidato al Parlamento, uno dei nuovi appunto, uno che fa parte a pieno diritto di quel esercito di rottamatori invocati a suo tempo naturalmente dal sindaco di Firenze Renzi. Poi insomma abbiamo visto in questi giorni addirittura ci si è lamentato per la sua assenza perché è tornato a fare il suo lavoro di sindaco, cosa che peraltro aveva detto, ma insomma parleremo con chi rappresenta il nuovo nella politica italiana, e cercheremo anche di capire se questo in quanto tale rappresenta un valore assoluto o solamente un fatto anagrafico, che è davvero sarebbe poca cosa. Ma parleremo anche, avremo un ospite che ci raggiunge dall'Irlanda, un paese che ha rappresentato per parecchio tempo uno dei veri e propri simboli del successo, della trasformazione, del successo economico dell'Europa e dell'Unione Europea. Un paese che diciamo storicamente è povero di immigrazione, un paese che ha vissuto più di altri un vero e proprio boom economico tra la fine degli anni 80 e il 2000, ma come accade anche un paese che poi ha subito in tutta la violenza quella che è appunto la crisi economica. Ci sono segnali positivi che arrivano proprio dall'Irlanda, Irlanda che, lo ricordiamo, a partire dal primo gennaio ha assunto per 6 mesi la presidenza a rotazione dell'Unione Europea. Ecco, tutto questo più tardi a partire dalle 8:15, adesso cominciamo invece dalla consueta rassegna stampa. In primo piano questa mattina c'è lo spread. Spread a quota 283, rally in borsa. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Mercati euforici dopo l'intesa che scongiura il fiscal cliff. Abbiamo dedicato di fatto le prime ore in diretta del 2013 proprio alla questione americana, alle trattative, poi al voto. Ecco dunque l'esito. Nella prima seduta dell'anno, dunque, ieri, tutte le borse mondiali chiudono in forte rialzo. La relazione allo scampato pericolo del fiscal cliff, il baratro fiscale americano, dopo che la Camera ha dato il via libera in extremis al compromesso sul budget. Moody's avverte però rating degli Stati Uniti a rischio senza tagli al deficit. E proprio in questa chiave di lettura è il fondo a firma di Luigi Zingales, il titolo d'altra parte esplicito, la montagna del debito resta intatta. Winston Churchill, scrive Zingales, amava dire che si può essere sicuri che gli americani facciano sempre la cosa giusta, ma solo dopo aver sperimentato ogni possibile alternativa. L'accordo fiscale per evitare il famigerato fiscal cliff, raggiunto ieri al Congresso degli Stati Uniti, è stato sicuramente conseguito dopo aver esplorato ogni possibile alternativa. Ma è la cosa giusta, si chiede l'economista. Se l'obiettivo era di evitare che la debole ripresa americana si arrestasse subito, sì. Se invece era quello di risolvere i problemi strutturali della finanza pubblica,

è stata la fase forse una vera e propria avanguardia della crisi del 2008, una crisi finanziaria, una crisi che ha toccato dunque la Repubblica d'Irlanda prima di altri. Bene, proprio due giorni fa su questo tema Il Sole titolava Irlanda dal salvataggio alla rinascita, quando il paese assume la presidenza dell'UE lo fa nell'anno in cui vuole tornare a finanziarsi sui mercati. Il ritorno della Repubblica d'Irlanda e appunto chissà che possa essere anche l'avanguardia, come è accaduto per la crisi, dell'uscita dalla crisi. E di questo abbiamo un ospite con cui parlarne, è una giornalista irlandese, dublinese, lavora alla Reuters a Roma, si chiama Naomi O'Leary. Buongiorno Naomi. Buongiorno Gigi, grazie per avermi invitato. Grazie a te. O'Leary direi che già è un cognome che come dire, ci getta completamente nei suoni, nella musicalità della cultura irlandese. Allora, una prima domanda che faccio a una giornalista, lo ripeto, che si occupa di notizie internazionali e di notizie economiche. Come recepisce un titolo che dice dal salvataggio alla rinascita? Dunque, crisi finita per l'Irlanda? Ma l'Irlanda affaccia ancora delle sfide enormi, è chiaro, però fra economisti c'è un po' di ottimismo perché è tornato alla crescita anche se di una rata abbastanza piccola. Quindi un po' di crescita, ovviamente è meglio che niente crescita. Il vostro vice premier, ministro degli affari esteri, Eamon Gilmore, dice: trainata dall'ottima performance dell'export e da un migliorato livello di competitività, l'economia irlandese è tornata a crescere. Naturalmente l'export è una misura essenziale e per l'Irlanda, se vogliamo, lo è ancora di più, visto la sua storia economica recente. Quindi queste sono le notizie da considerare, appunto, le notizie positive su cui basare l'ottimismo di inizio anno? Soprattutto dal punto di vista economico, Irlanda ha delle fortezze, diciamo, che ha aiutato un po'. Per esempio ha una popolazione molto giovane, infatti il più giovane dell'Europa, e un livello di formazione abbastanza alta, che è il risultato di tutto quello che in Irlanda ci sono delle aziende internazionali che hanno scelto di basare le operazioni europee lì per quel motivo, per esempio Google, Apple e soprattutto le aziende di tecnologie. Ecco, da fuori si dice spesso che queste aziende che Naomi O'Leary citava di fatto sono andate in Irlanda essenzialmente per i vantaggi fiscali. Tu dici c'è qualcos'altro, c'è anche la cultura e l'età media della popolazione a contribuire a quello che è stato di fatto uno dei grandi successi dell'Irlanda recente? È vero che c'è un tasso abbastanza basso che è competitivo, diciamo, però anche c'è il fatto che in Irlanda si parla l'inglese e lì abbiamo, come ho detto, una popolazione molto giovane e formata, quindi anche questo è un vantaggio per le imprese. Ecco, una popolazione, pensate, la popolazione irlandese è così giovane, tra virgolette, che nell'indice di vecchiaia nell'Unione Europea, ve l'ho citato stamattina nel corso della rassegna stampa, che vede la Germania in cima, nel senso per misura della vecchiaia a 153, seguita subito dopo dall'Italia a 144, bene, l'Irlanda è esattamente ultima a 53 punti. Quindi un paese essenzialmente di giovani che ovviamente parlano inglese come lingua di riferimento e che di fatto però negli ultimi tempi è anche un paese che ha riscoperto e utilizzato, credo, ampiamente quella che è la valvola di sfogo della migrazione. Sì, anche quello dicono gli economisti che ha aiutato un po', perché è una scelta automatica quasi di andare via alle altri paesi come America o Australia o il Regno Unito, dove l'economia può essere più forte ancora. E come tutti i giovani parlano inglese, è più facile fare questo cambio, quindi si funziona come dici te, una valvola di sfogo, e vuol dire che per esempio in Irlanda il tasso di disoccupazione fra i giovani è un po' più basso che in Italia, è tipo 30 in paragone a 36 o così, e questo può essere un risultato dell'emigrazione, che è più facile, però ha degli effetti brutti sul paese, perché ogni giorno partono 250 giovani, che soprattutto giovani fra l'età di 20 e 30 anni, e vanno via, non restano di costruire il loro paese, quindi vuol dire che sì, non è tutto positivo. Ecco, la mobilità, come si dice, cioè anche molti economisti insistono spesso sulla capacità, invitano soprattutto quando si rivolgono ai giovani italiani, sulla capacità di ampliare i propri confini. È più difficile evidentemente per chi usa una lingua che di fatto è lingua madre per poco più di 70 milioni di persone. Nel caso dell'Irlanda questo problema non esiste. D'altra parte la migrazione è un fattore storico proprio di dissanguamento della cultura. Cioè, a tuo avviso si è arrivati a una sorta di equilibrio, che ovviamente non sia quanto in passato furono le grandi fughe, ma neanche questo, tra virgolette, vizio un po' italiano, per cui per ragioni culturali e magari anche linguistiche, sicuramente, insomma, andare via è considerato spesso una sconfitta più che un'opportunità. L'Irlanda ha trovato un suo equilibrio, a tuo avviso? Ovviamente la situazione, cioè, non è lo stesso per tutti, per qualche sarà un'opportunità, per altri sarà una scelta difficile, da necessità, diciamo, dipende dalla persona, però si vede che negli anni della tigre celtica, come si dice? La tigre celtica, certo. Sì. durante quegli anni infatti abbiamo avuto un flusso all'interno, quindi non andavano via più, quindi vuol dire che se c'è opportunità a casa di solito non vanno via tutti, almeno. Anche gli irlandesi restano in un paese che dalle sue tradizioni appunto profondamente rurali dell'allevamento vede anche una spaccatura che permane, credo, tra la capitale, tra la seconda città che è Cork, e il resto del paese, no? Quindi dei riferimenti molto chiari che sono nelle città. Sì, sì, abbiamo un paesaggio molto agricolo, cioè, però questo è una cosa normale in tutti i paesi, quasi tutti i paesi dell'Europa. La città è dove si trova le più opportunità e tutto quello. E l'Irlanda, tra l'altro, in questo offre anche il vantaggio di dimensioni complessive non certo enorme, per cui il commuting, il movimento interno anche per il lavoro è praticabile. Sì. Ecco, vorrei chiederti, e ricordavo appunto Naomi O'Leary, è giornalista e corrispondente per la Reuters a Roma. In conclusione, questo momento ti vede impegnata con molti colleghi di lingua anglosassone nel racconto, immagino, della campagna elettorale italiana. Sì, mi chiedono come l'Italia, se si sente la crisi in Italia, cosa sarà il risultato, se l'Italia sia ancora favorevole all'euro o al contrario, mi chiedono se chi vincerà, se veramente Silvio Berlusconi ha un'altra opportunità di essere primo ministro per un'altra volta. Questa è la grande curiosità, diciamo, che emerge tra i colleghi della stampa internazionale. Quindi il ritorno di Berlusconi domina sempre la scena? Il ritorno di Berlusconi sicuramente è stato un tema grande, perché è un carattere che ha un grande interesse per tutto il mondo. Diciamo che c'è sempre un discorso su quello. L'impegno mio è di e di tentare di spiegare la situazione com'è e se, se veramente può avere un'altra opportunità di essere capo di governo. Ecco, qual è la parte più difficile? Quali sono gli aspetti più complicati da raccontare all'opinione pubblica anglosassone, secondo te, della politica italiana? C'è qualcosa che davvero si fa fatica a far comprendere? È una domanda difficile. Sì, è possibile che all'estero c'è un'immagine di Italia che è un po' diversa che qua. Di solito può essere che le notizie che arrivano all'estero occupano su qualche temi che ritornano sempre, la mafia e signor Berlusconi e tutto quello, e la cultura. È una cosa positiva che l'Italia ha un'immagine forte all'estero, però anche vuol dire che è un'immagine un po' troppo semplice e sì, non si vede la situazione come veramente. Un'immagine semplificata, che d'altra parte è quella che noi abbiamo dei paesi stranieri, Irlanda compresa. Io ringrazio di essere stato con noi questa mattina a Naomi O'Leary, lo ricordo, irlandese, dublinese, corrispondente per la Reuters a Roma. Insomma, l'Irlanda dal salvataggio alla rinascita, un semestre che chiave per la politica europea, per l'economia, per l'Irlanda stessa, che dal 1 gennaio ha assunto la presidenza della UE. Bene, abbiamo fatto le 8:30, è tempo di lasciarci per qualche momento e poi torniamo davvero a piedi uniti sulla politica nazionale, sulle elezioni. Due ospiti con noi questa mattina, abbiamo Paolo Cirino Pomicino, già onorevole ministro, pensate, la prima volta in Parlamento nel 76, e abbiamo con noi anche Matteo Richetti, che invece è classe 74 ma è candidato al Parlamento per il Partito Democratico. Insomma, parliamo di politica con due sguardi probabilmente molto lontani, molto diversi, che penso ci possano aiutare invece a illuminare un po' la complessità di queste giornate. A tra poco. Ancora un buongiorno, sono le 8:33 minuti di questo giovedì 3 gennaio. Dunque, naturalmente, campagna elettorale a tutto campo. I titoli che avete sentito prima nella rassegna stampa, dal duello Premier PD, gli scambi, oggi vola una parola che viaggia parecchio, quella di conservatori, un termine che viene usato appunto per definire ovviamente in questo contesto in termini assolutamente negativi la polemica e il dibattito nello specifico tra Mario Monti e i parte appunto esponenti del PD. E di questo e altro, di questo scenario, a questo di questa complessità, come abbiamo detto un momento fa, chiediamo lumi a due figure della politica che, ho anticipato, sono molto diverse, distanti tra loro anche anagraficamente. Saluto, ringrazio di essere con noi, Paolo Cirino Pomicino, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. E dicevo, deputato la prima volta nel 76, giusto? Esatto. Quindi, insomma, una carriera, poi una lunghissima carriera politica. Con noi è Matteo Richetti, invece, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a Cirino Pomicino. Matteo Richetti è classe 74 invece, quindi non in politica dal 74. Ora, per questo, il vecchio e il nuovo, usato nell'accezione appunto reale del termine, che in sé, come abbiamo detto poc'anzi, vuol dire ben poco. Non siamo certo tra quelli che pensano che il dato anagrafico sia la caratteristica delle persone. Di fatto un lungo percorso di questa nostra Italia che ancora una volta arriva al voto. Allora, io partirei subito con una domanda a Richetti. Oggi il Fatto Quotidiano titola: buttiamo fuori gli impresentabili dal PD. Ecco, questo è uno dei temi di questa campagna elettorale. Lei ha appena acquisito a forza di voti una posizione forte all'interno del partito. Che cosa, come riflette su questa formazione? Buttiamo fuori gli impresentabili dal PD. Chi sono gli impresentabili? È giusto andare avanti su questa linea? Ma si pone un problema di difficile soluzione e anche questa discussione dimostra la fallibilità degli strumenti. Abbiamo ideologizzato fino al punto, insomma, di beatificare lo strumento delle primarie e oggi ci ritroviamo a vedere come anche con le primarie a volte si possono creare situazioni che poi fanno partire la discussione che stiamo facendo. Non c'è dubbio che più che una contrapposizione tra vecchio e nuovo, nella quale, insomma, mi riconosco molto poco, è giunto il tempo forse di dare più qualità alla classe politica, di dargli quella credibilità e quell'autorevolezza che pare si sia un po' smarrita nella discussione, nel confronto con i cittadini, ma soprattutto nel giudizio dei cittadini verso chi sta interpretando la politica, soprattutto a livello nazionale. Il tema c'è, anche se, insomma, la sovranità del popolo si esprime anche attraverso la libertà di scelta delle persone. Ci vuole una soglia molto chiara, molto netta, che fa riferimento a cittadini che si candidano alla politica senza avere nessun sospeso con la giustizia, senza avere nessun tasso di ambiguità nel proprio curriculum. Ci vorrebbe però una selezione dei partiti a monte, insomma, è impensabile affidare uno strumento come quello delle primarie ai cittadini, che dà la possibilità di libertà totale di scelta, e poi dopo a consuntivo dare un giudizio di inappropriatezza della scelta dei cittadini. Quindi forse con dei partiti un po' più forti, che sanno fare una delle azioni che gli è consona, cioè quindi non solo quella dell'iniziativa della proposta politica, ma anche quella delle selezioni della classe dirigente, non si arriverebbe a questo punto. Ecco, Ricchetti, sembra quasi, poi ovviamente avrà modo di rispondere, che lei invochi un qualche modo un ritorno a un'immagine che io credo altri, ma insomma di sicuro io ho, di una vecchia politica, quella in cui di fatto la segreteria del partito definiva tutto, quella in cui, chiedo lumi a Cirino Pomicino, di fatto lui è cresciuto, cioè una politica in cui il segretario del partito, i suoi uomini più ristretti definivano i percorsi anche i professionali. Una volta si parlava senza nessuna vergogna di scuola dei partiti, è stato detto tante volte per quella dell'allora PC. Insomma, Cirino Pomicino, nessun effetto taumaturgico delle primarie e più ruolo dei partiti, che ne pensa? Ne penso bene, ma con delle correzioni, sia chiaro, perché diciamo nel passato non è che le segreterie dei partiti decidevano tutti, tutt'altro. È un'impressione. Perché quello che si faceva oggi, si è fatto oggi da parte del PD con le primarie, che è stato dirompente e coinvolgente, avveniva nelle elezioni dirette dei deputati, nel senso che i cittadini andavano sulla scheda e dovevano scrivere Pomicino, un nome lunghissimo peraltro, ed era il cittadino che faceva la selezione dinanzi a questo. Non c'è dubbio che anche lì poteva capitare una qualità diversa l'uno dall'altro, ma c'era una selezione rispetto ad una proposta plurima che il partito offriva ai cittadini, e i cittadini sceglievano tra 29 nomi, parlo della mia circoscrizione, che erano i 29 nomi della lista della Camera dei Deputati, il cittadino sceglieva, e al proprio interno, ma questo per tutti i partiti, non solo per il mio, certo, partito, c'era questo tipo di selezione. Perché le primarie oggi hanno avuto questo effetto esplosivo e positivo? Perché sono 20 anni che non si vota più nei partiti. Quindi la chiave è il sistema elettorale. C'è stata un'involuzione di tipo personale, per cui il discorso delle primarie, ripeto che è un'anomalia nelle democrazie parlamentari in tutta Europa, però ha fatto surrettiziamente recuperare la voglia di partecipazione dei cittadini. Insomma, dove non è stata capace la classe politica impegnata in Parlamento in queste settimane, ne abbiamo parlato all'infinito. Ma vede, se i partiti sono padronali, la selezione diventa cortigiana. Quindi classe elettorale, legge elettorale che blocca questo tipo di sviluppo, lei dice, e surrettiziamente quindi il benvenga un meccanismo che aggira la questione. Ecco, lei di fatto rivendica anche quello che sono numeri che allora quasi volgari, gli oltre 40.000 preferenze che eravate, che lei è stato capace di raccogliere, voglio dire, erano numeri importanti. Secondo... Sì, lei ha detto numeri molto modesti rispetto alle nostre preferenze che raccoglievamo. Io avevo una circoscrizioni di 3 milioni e mezzo di persone, quindi non di poco tempo, ma io prendevo 150-180 mila voti di preferenza. Richetti, ecco, questi numeri oggi come si pesano? Oggi con numeri molto diversi si di fatto si festeggia. D'altra parte i numeri sono numeri, questi delle primarie sono davvero un patrimonio che voi vi trovate oggi a gestire. Dubbio che sono un patrimonio, anche perché adesso l'onorevole Pomicino probabilmente prendeva quei numeri con un sistema di preferenze diverso da quello attuale, non c'era la preferenza singola. Penso che una persona come me, che prende 10.000 preferenze in una provincia come Modena, che ha 600.000 abitanti, e quando vanno a votare circa 30.000-35.000 persone, beh, insomma, cominciamo a ragionare di numeri, secondo me, di forte rappresentatività. Io prima non volevo invocare il ruolo delle segreterie dei partiti, volevo solo far notare che lo strumento straordinario delle primarie, quando lo si utilizza, lo si deve utilizzare in maniera governata. Mi fa un po' sorridere che a seguito delle primarie noi scopriamo di aver eletto persone che casomai hanno, appunto, sono in mezzo a un rinvio giudizio, addirittura in odore di relazione poco pulita con qualche ambiente della società italiana. Basterebbe solo che le persone che concorrono alle primarie fossero selezionate in maniera cristallina, tutto lì. Io sono una persona che è sempre passata dalla relazione diretta con gli elettori. Ho fatto il consigliere regionale per due mandati con lo strumento della preferenza e mai rifugiandomi in un qualche listino bloccato. Non l'ho fatto nemmeno questa volta, dico solo che partiti forti hanno due aspetti. Non hanno paura di aprirsi al giudizio degli elettori e alla loro scelta, ma allo stesso tempo si assumono la responsabilità di offrire agli elettori una proposta pulita, linda e cristallina. Ecco, questo è un primo punto. Richetti, mi scusi, la scelta di candidare, a proposito di rottamazione dintorni, Rosy Bindi in Calabria, è stata una scelta azzeccata a suo avviso? Io avrei preferito vederla correre in Toscana, ma questo... Perché questo naturalmente forse per i per gli ascoltatori, perché la Toscana è il suo bacino di fatto. Sì, nel senso che io sono presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, no? Ma non è che ho corso a Piacenza, a Rimini o in altre... Ho corso nella mia città, nella mia terra, in mezzo alla mia gente, mi sono sottoposto al giudizio di... degli elettori con i quali ho una relazione ormai da alcuni anni. Penso che sarebbe stato logico aspettarsi questo, insomma. Dopodiché Rosy Bindi è passata dal giudizio popolare degli elettori del PD, ne ha avuto un riscontro positivo, bene che sia candidata. Ecco, la relazione tra il politico e il territorio, Cirino Pomicino, ovviamente questo è un altro, diciamo, elemento delicato, ma anche che ha portato poi tutta una serie di derive, di familismi, di relazioni. Dove sta la chiave di questo? Posso aggiungere una cosa, quello che diceva Richetti molto bene, ma nel passato nessuno di noi mai pensava che io da napoletano potessi andare a presentarmi nel Veneto o viceversa. Cioè, è una cosa che oggi ci fa ridere, ma che è stata la caratteristica della Seconda Repubblica. Perché vede, anche nel sistema dei collegi, lei ricorderà che, ad esempio, me ne viene una in testa, la mia amica onorevole Carlucci, che era una romana, è stata eletta a Trani. E così c'era una tarabanda di collegi, dove in alcuni collegi, veda il collegio toscano, quello del Mugello, e i poveri amici della sinistra non sono mai stati capaci di eleggere uno dei propri, perché essendo un collegio sicuro, una volta andava Di Pietro, una volta andava Aracchi, se non vado errato. Cioè, voglio dire, c'era all'epoca quello che diceva Richetti: il territorio esprime la propria classe dirigente, per cui nel passato il più sciocco nel bene dei parlamentari e nel male era il rappresentante di un pezzo del territorio. Nel bene e nel male, perché voglio non dire... non c'è dubbio nel bene e nel male, ma questo è inevitabile. Il Parlamento non è il Parlamento degli eletti. Ma per carità, l'ultima della Carlucci, sta con il professore, l'ha citata un attimo fa, oggi sul Fatto Quotidiano, da Berlusconiana di Ferro all'UDC, la chiamarono Giuda, ora la sponsorizza il ministro Pomicino. L'ha visto questa mattina? Sponsorizzo io. Hai passato nell'UDC... perché aveva delle difficoltà all'interno del partito del Popolo della Libertà, e anche questo è un senso. Guardate bene che nei 40 anni di Prima Repubblica ci fu un solo passaggio di partito di un signore che non nomino perché ancora oggi una persona vivente ci svolge funzioni e fu schiaffeggiato a Montecitorio. Nei 20 anni della Seconda Repubblica 220 persone hanno cambiato casacca, sono forse 220 delinquenti. No, purtroppo non esiste un rapporto tra il parlamentare e il territorio, tra il parlamentare e il proprio partito, se non nella fidelizzazione del capo di turno che decide se Tizio, Caio, Sempronio può essere eletto. Ecco, esperienze territoriali, amministrative, le corse dei sindaci in realtà indicano delle evoluzioni diverse. Torniamo a parlarne con i nostri ospiti, vorrei anche con loro condividessero la loro opinione su quella che poi è un'altra delle notizie di oggi. Così Silvio vuol prendere il Sud, tanto per sintetizzarla, da Libero, ma dice pur di avere la Lega è pronto al passo indietro. Insomma, da una parte il Sud da conquistare, il voto del Sud, ma naturalmente anche il rapporto con la Lega. Torniamo subito. Non avevamo bisogno dell'esaltazione della Seconda Repubblica, scrive Paolo, né questa almeno, se è diversamente mi scuso, ma forse soprattutto con me stesso l'impressione, non è questo il punto. E sicuramente il punto è che, come accade sempre e quindi anche in questa circostanza, ci sono strati di storia politica che si sovrappongono, e probabilmente la lezione del passato deve dare anche la capacità ai nostri concittadini, a tutti noi, di riflettere, di fare delle scelte. Ma torniamo a Sud e alla Lega. Ecco, Richetti, a proposito di Lega, in Emilia il tema, insomma, le passate elezioni hanno dimostrato di quanta forza abbia anche avuto di impatto, di penetrazione su un territorio storicamente rosso. E adesso a che punto siamo? Il vostro rinnovamento, che però insomma le primarie da questo punto di vista non hanno portato forse a tutti gli aspetti, i fattori auspicati, favorisce, penalizza la Lega, come si trova rispetto a loro? Come diceva lei prima, però le primarie sono state anche il momento per riannodare un po' quei fili di relazione con il territorio in termini di rappresentanza parlamentare a Roma, che certamente toglie anche un po' di fiato ad una forza politica che era nata con l'idea e nell'idea di portare i territori e il protagonismo del territorio al centro della propria azione politica. Le faccio un esempio che nei pochi giorni di campagna elettorale ai quali ci siamo dedicati per queste primarie, i cittadini ci ponevano solo temi legati a terremoto e quindi ricostruzione, perché io comunque insomma rappresenterò, certo, una provincia così fortemente segnata, il tema drammatico a cui dedicate giustamente molta attenzione, che è la crisi economica sulle piccole e medie aziende. Guardate che qui da noi delle Ilva di Taranto ne hanno già chiuse un po', se noi contiamo i posti di lavoro persi sommando piccole aziende che fanno 40, 50, 60 dipendenti, fanno molto meno rumore ovviamente che un'azienda da 7-8 mila posti di lavoro che chiude, ma che hanno ovviamente lo stesso tipo di impatto su famiglie e territorio. E quindi, avendo fatto questa cosa, penso che il PD abbia recuperato anche questa capacità di essere forza che prova a portare non l'alchimia della politica al centro della discussione, come si riconquista il Sud, con quali profili, con quali alleanze, ma si riconquista la fiducia dei cittadini provando a essere davvero rappresentante delle istanze del territorio. Non c'è dubbio, anche mi pare di coglierlo anche dall'osservatorio regionale, che le vicende nazionali che hanno legato insomma gli scandali degli ultimi mesi hanno segnato anche quelle forze politiche a cui si faceva riferimento prima, in termini forse di forza, di credibilità, di capacità di raccogliere consenso. Ecco, Pomicino, Silvio lancia la campagna per riprendersi il Sud. Il Sud pesa, e come il Sud, poi ne abbiamo parlato anche, però come in passato in quel mondo politico di cui prima abbiamo anche parlato, insomma non dobbiamo mai dimenticare quelli che sono gli elementi più negativi tra scandali, ma soprattutto di relazione, che fondamentalmente sono negativi al di là di qualsiasi considerazione, perché non hanno portato allo sviluppo del Sud. Silvio Berlusconi, se la gioca al Sud, secondo lei, e ce la farà? Ma vedi, il Sud è stato sempre un'area geografica di grande interesse, nella quale proprio per la carenza di sviluppo la politica aveva un valore ancora più importante di quanto non avesse al nord. La società civile del nord, nelle sue articolazioni ordinistiche, associative, era una società molto forte, capace di confrontarsi con la politica. Nel Mezzogiorno la politica poteva essere la ricchezza di quelle zone facendole sviluppare, o al contrario una cattiva politica poteva affossarla. Ma questo è un problema che valeva non soltanto nel passato, ma anche adesso. Certo. E non soltanto per Silvio Berlusconi, ma anche per la sinistra, per il PD o per le altre forze di centro. È una grande area geografica che ha naturalmente il 40% della popolazione, che ha bisogni eccezionali e che però vanno inquadrati. Se mi posso permettere di dare un suggerimento all'amico Ricetti, è che la rappresentanza territoriale va tutelata in Parlamento, ma essa va inserita in linea di politica nazionale che nel loro svolgersi complessivo hanno ricadute sul proprio territorio, ma anche sui territori altrui. Ecco, quelle tante ricadute che però... Perché questo è l'elemento di fondo, certo, per un deputato nazionale. Ricadute che a questo punto, e qui forse un momento di riflessione sul passato da questo punto di vista, i fallimenti sono ben più numerosi dei successi nel sud. È d'accordo o ma no? No, perché basta vedere che cos'era il sud nel 1950, che cos'è che cos'era nel 1992, che cos'è naturalmente senza un soggetto debole in un momento di crisi, una crisi che dura da 4 anni, anzi veramente da 5, perché dal 2007 che la crisi si è innescata, il soggetto debole è quello che perde più rapidamente posti in quantità, perché è debole sul piano strutturale, sia sul piano materiale che su quello immateriale. Ecco, e da questo però direi che si misura anche un po'... Che poi va anche un attimo scompaginato lo stereotipo di un Mezzogiorno che è soltanto malaffare. Tenga presente che il Mezzogiorno ha dato a questo paese... No, ma questo non ho dubbi, mi riferivo di questo caso, ma per carità, infatti non, di sicuro questo non è uno stereotipo che attecchisce qui, ma si parlava anche di classe politica e quindi questo è un discorso leggermente diverso. Ma Pomicino, una domanda secca: Berlusconi sfonda al sud o no, secondo lei? Non sfonda, credo che prenda voti importanti, veramente per il passato ha sfondato anche al nord. Assolutamente. No, no, infatti, ma uno non esclude l'altro, era una domanda visto sul tempo. Sì, no, ma credo che acquisterà una serie di consensi, perché c'è la sinistra che nel sud soffre non poco. Soffre ed è frantumata. Ricchetti, un'altra parola che viaggia molto in queste ore, e lo dicevamo prima nella rassegna stampa, è quella dell'accusa di essere conservatori. Naturalmente Monti, che si riferisce a Fassina, e lui risponde oggi dicendo: la sua lista sembra Rotary, così si dimentica dei più deboli. Ecco, è questo un altro tema, un altro terreno di confronto delle prossime settimane, l'essere o meno conservatore? Sì, ci manca solo però che torniamo alle tifoserie che hanno caratterizzato 20 anni di politica e poi siamo a posto. Mi pare che il fiscal cliff di questi giorni negli Stati Uniti dimostra che quando il paese è di fronte a situazioni di difficoltà forse è meglio trovare intese, punti di accordo, piuttosto che buttarla in cacciara come fa qualcuno, compreso qualcuno del mio partito. Non c'è dubbio che il tema della conservazione è un tema che ha unito i poli più di quanto noi non immaginiamo, cioè la volontà di tenere tutto com'è, l'incapacità di produrre cambiamento vero, non solo a parole nei convegni, e che ha, devo dire, attraversato, contaminando in maniera pericolosa sia il centrodestra che il centrosinistra. Il centrosinistra, per quanto riguarda, secondo me, il ritardo con cui arriva alla riproposizione di alcuni temi come il mercato del lavoro, le trasformazioni economiche, le politiche di sviluppo, e il centrodestra per quanto riguarda dei processi di liberalizzazione del mercato dell'economia che non sono mai avvenuti, perché questa è la verità, ed è questo il motivo per cui penso che non esista né centro né nord né sud per la sfondata di Berlusconi. Cioè quando si fa Quando si aumenta così la spesa pubblica senza produrre nessun tipo di crescita e di sviluppo, io penso che non ci sia regione del nord che ti possa ritenere attrattivo. Grazie a Matteo Richetti, lo ricordo, candidato al Parlamento per il Partito Democratico, già presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Grazie a Paolo Cirino Pomicino, ex onorevole, ministro, lo abbiamo detto, una carriera politica che inizia nel 1976, dunque una lunga esperienza, una storia che al di là appunto che è anche la storia della politica italiana, degli anni, dei lunghi anni della Democrazia Cristiana nel nostro paese, con tutti, molti ascoltatori, a volte come dire, si lamentano di come all'interno degli spazi di Radio 24 ci sia questa complessità di punti di vista, di voci, di storie. Bene, noi ne siamo orgogliosi e direi che se possiamo fare e farci un augurio per questo 2013 è di continuare semmai a farvi arrabbiare su questi punti, sentendo punti di vista diversi, vi assicuro che, come dire, le critiche arrivano da ogni parte in certi momenti. Un saluto a tutti voi, a domani, ora GR24, a domani ancora.